sappiamo che è una grandissima partita e una grandissima squadra, una grandissima nazionale. Poi sul fatto della partita, comunque noi ci stiamo allenando molto bene, conoscendo anche la loro formazione, avendo giocato tre volte contro di loro e per quello cerchiamo di prepararsi al meglio. Senti, nella nostra memoria c'è ancora quell'1-0 incredibile di Khartoum che ha qualificato voi algerini ai mondiali e eliminato gli egiziani. Pensi che quella sfida possa avere delle conseguenze su questa semifinale, anche dal punto di vista emotivo, dal punto di vista anche dell'ordine pubblico? Penso più sul fatto emotivo, perché poi sull'ordine pubblico sarà una... comunque qua la sicurezza è alta e secondo me non ci sarà niente, più solo l'ordine emotivo, perché comunque sappiamo quello che ci ha detto questa partita, che sia per noi o per loro, e per quello sarà una grande gara. Dal punto di vista tecnico-tattico, Ghezzal, che partita vi aspettate? Sicuramente molto fisica, perché siamo due squadre che comunque giochiamo fino al fondo al massimo, è di grande qualità, perché anche noi l'abbiamo visto anche sull'ultima partita contro la Costa d'Avorio, il favorito della Coppa d'Africa, siamo riusciti a giocare un gran calcio. Loro hanno pure questo fattore, che giocano molto bene, e per quello sarà secondo me un'ottima partita.